ACDC. ACDC. A chi dici? Pronto? Pronto? Sì. Ciao! Ciao Gaucho! Come ti chiami? Paolo! Paolo, da dove chiami? Io sono di Monza, però ti chiamo da fuori dell'università, ho saltato una lezione per sentirti. Ma non esiste! Ma non esiste! Si può dire? Non ne vale la pena, dimmi! Sì, no, si può dire che ho saltato, si può dire, che mia mamma si arrabbia. Tua mamma ascolta Gaucho, non è impossibile. A volte sì. Ma no, non ci credo. Perché il fatto è che cazzi tuoi stasera, allora. Io sono quello che ti aveva scritto il fax e non ti può seguire. Ah, ho capito. E purtroppo mia mamma allora mi deve registrare Gaucho Show. E infatti, poverina. Adesso penso che sia in posizione X. Ma dai, povera mamma. Ma ascoltami, come mai ti hanno spostato gli orari delle lezioni? Bisogna fare qualcosa, devo parlare con qualche prof. Parla con il magnifico rettore. Il rettore, ma com'è il rettore? Com'è quello dei film, quello severissimo. Io non l'ho mai visto, una figura mitica. Praticamente. Ma non c'è neanche la foto? No, non c'è la foto. Io sono qua da 2 anni all'università e non l'ho mai visto. Impossibile, non c'è la foto del rettore nell'università. Non so. Ma no, guarda che non l'hai vista tu, è 2 anni ma non l'hai vista. No, forse perché fa l'animatore in discoteca, mi dicono. Il rettore. Forse è bruttissimo. No, il rettore fa l'animatore in discoteca. È come Gaucho, allora. Sì. Uno... Infatti, a volte, sai, tipo il martedì così e lì al medica. Ok, dico. Va bene. Allora gli parlerò io, gli dico di farti una lezione privata a te dalle 9 alle 10 di sera. Va bene. Sì, infatti, cioè spostare un po' l'orario. Volevo anche farvi i complimenti per la diretta di ieri sera. Piaciuta? Bella. È stato uno sforzo non indifferente per noi, però siamo contenti. Abbiamo ricevuto tanti complimenti e ci fa molto piacere. Sì, infatti vi tengo anche per questo. Gentilissimi. Aspetta, passo un attimo mio amico Alan, che anche lui vuole fare i complimenti. Lui vi sta ascoltando con la radiolina. Col Walkman. Sì, aspetta, scusami, Alan. Sì. Alza un attimo il Walkman. Aspetta. Alza. Anzi. Ciao Alan! Peccato, in pieno. Ok. Ho fatto la permanente. Pesantissimo. Com'è? Tutto bene, Alan? Tutto bene. Tutto ok. Cosa fai nella vita? Studi. Dovrei andare a lezione con Paolo, però ma non andiamo mai. Abbiamo saltato no, oggi. Mai, oh. Ma di preciso cosa fate? Ma vado sempre. Cosa studiate? Facciamo lingue. Lingue? Non studiano niente, non vanno mai. Non studiano, scusa. Scienza della lingua? No. No, cosa studiate? Scienza dell'informazione. Bello. Per questo ci ascoltate, ci esatto. Analizzate. Ho capito. Comunque siamo noi che vi abbiamo accusato di essere la lunga mano della censura. No, ma non è vero, tu lo sai benissimo. Noi? Che non si... Ma no, ma siamo proprio fuori dal mondo. Noi siamo chiusi dentro lo studio e fuori c'è gente che vorrebbe entrare per fermarci, ma non ce la farà mai. Esatto. Allora, perché per sempre. No, ma sapete perché non ce la fanno? Sì? Perché ci siete voi, che ascoltate. Esatto. Se no, altrimenti noi ci avremmo già mandato sai quante volte nella spazzatura. Ascolta, sì. Non saltate più la lezione, dai. No. Fatelo per me, ok? È una cosa straordinaria. Comunque ci c'è un sacco di gente che siamo in una cabina pubblica che ci piglia per pazzi. Salutatecela. Ok. Ciao, buona giornata. Ciao. Non si salta la lezione, eh? Guai se lo sa la mamma e il papà. Se sono lì che credono che siate a scuola. Mio figlio com'è bravo tutti i giorni a studiare. Cos'è questa? Questa qua per me non lo so. Mollami. Mollami. senza estrema.